Euroreportage. Life, finanziare per imparare, di Laura Bettini. Fin dal 92, per ragioni che ancora oggi ci sono parzialmente ignote, l'Italia e la Spagna sono stati di gran lunga i migliori clienti di Life. Tanto per darle un esempio, nell'ultima tornata, su oltre 1400 proposte che sono arrivate, la metà di tutte queste proposte provenivano dalla Spagna e dall'Italia. È un segnale di un'Italia che è ancora vitale, che ha delle idee, che ha voglia di fare, perché altrimenti la gente non si metterebbe a inventare questi progetti live che, le assicuro, da un punto di vista della preparazione e redazione sono difficilissimi. Angelo Salsi è responsabile dell'unità Life presso la Commissione europea. Life è un programma finanziario che ha l'obiettivo di sostenere progetti che possono concorrere alla realizzazione delle direttive ambientali europee. Nasce nel 1992 e in gran parte finanzia progetti dedicati alla conservazione della natura, ma non solo. L'altra metà di Life punta su progetti di efficienza energetica, riqualificazione urbana, gestione dei rifiuti e via dicendo. È un programma ad ampio spettro che mira a sperimentare e diffondere le buone pratiche. Qualsiasi cittadino può andare tranquillamente in un motore di ricerca qualsiasi e cliccando Life ha un'ottima probabilità che gli appaia come prima risposta il sito del programma Life. In questo sito trova il database di tutti i progetti con un motore di ricerca abbastanza semplice da utilizzare da parte di chiunque e effettivamente una volta individuato il progetto trova una descrizione del progetto, di quello che ha realizzato, ma trova anche tutta una libreria di documenti e soprattutto la possibilità di contattare il beneficiario del progetto e quindi ovviamente di andare a cercare il know-how e l'esperienza che queste persone hanno sviluppato grazie al loro progetto e eventualmente replicarlo. In effetti è solo sperimentando che si può sapere davvero cosa funziona, cosa no e perché. Era una casa molto carina senza. I promotori del progetto Eco Coats, cofinanziato appunto da Life, avranno ad esempio molto da raccontare a Bruxelles. Capofila di questo progetto, Eco Cortili, è il comune di Padova. Partner sono due regioni, Emilia-Romagna e Toscana, e le cooperative di Finabita, Lega Coop e ANCC Coop. 318 le famiglie coinvolte in 4 condomini pilota, a Milano, Bucinasco, che è provincia di Milano, Firenze e Roma. In via dei matti, numero 0. L'obiettivo è ridurre i consumi a livello domestico del 15% per l'energia, della stessa percentuale per i rifiuti e del 30% per l'acqua. Un progetto che si sposa con i nostri principi, dice Claudio Toso, responsabile nazionale politiche sociali per ANCC Coop. Il settore lo seguiamo da parecchio tempo, nel senso che l'attenzione di Coop per l'ambiente parte addirittura dal 95 in un'assemblea nazionale svolta a Grado. Coop ha deciso di stare su questo pezzo e starci in maniera significativa. Quindi nel momento in cui ci è stata presentata questa opportunità di partecipare insieme ad altri, noi ci abbiamo partecipato subito in maniera forte e precisa. Abbiamo messo a disposizione quello che è il nostro grande patrimonio, quindi i soci e la possibilità di dare spazio a quel contributo di esperienza che abbiamo costruito in questi 20 anni. Visitiamo il condominio di Via Caldera a Milano, che è appunto uno dei condomini coinvolti in questo programma. Ci attende lì Federico Ulliano, vicepresidente della cooperativa De Gradi, che è proprietaria degli edifici. Ci racconta che qui erano già previsti lavori importanti, tra cui il rifacimento di un'intera palazzina, e così se ne è approfittato per fare qualcosa in più. Mettendo in campo queste azioni e discutendole, ragionandole, condividendole con le persone che abitano, abbiamo notato che anche persone che non ne sapevano niente o anche persone che hanno una certa età, quindi hanno magari meno coscienza di quello che sta accadendo anche a livello planetario, sì. A livello ecologico, sono riuscite a farsi conquistare dalla cosa. Per esempio la questione della casa dell'acqua che abbiamo installato qualche anno fa e che il nostro ufficio ci dice che da marzo a settembre sono stati erogati quasi 20.000 litri d'acqua e risparmiate 13.000 bottiglie di plastica. Credo che senza il coinvolgimento delle persone che abitano, la casa dell'acqua sarebbe potuto essere un buco nell'acqua, più che una casa dell'acqua. E poi piccole altre azioni, appunto i riduttori di flusso, stiamo cambiando tutte le lampade degli spazi condominiali con lampade LED. Abbiamo dato a tutti i partecipanti a questo progetto delle lampade di risparmio energetico, invitandoli a cambiare le lampade in casa loro. Abbiamo nel locale pattumiera abbiamo messo a disposizione un raccoglitore di oli esausti. Abbiamo istituito questo servizio di bike sharing che è molto interessante, nel senso che loro stessi, alcuni soci, ci hanno donato delle biciclette ormai in disuso, magari non in ottime condizioni. Noi, tramite una ciclofficina amica, le abbiamo risistemate. Sta avendo un discreto successo anche questo. La sostituzione di tutti i piani cottura con i piani a induzione. Il progetto, come dicevamo, è cofinanziato dall'Unione Europea. Allora chiediamo a Ugliano qual è stato l'esborso per la cooperativa. L'impegno economico della cooperativa è stato di qualche migliaio di euro, in maniera proprio contabilizzabile sulla casa dell'acqua e tutte le altre operazioni. Poi c'è ovviamente un grande lavoro da parte di chi lavora all'interno della cooperativa per seguire bene il progetto, studiare nuove opportunità di sviluppo e monitorare costantemente come sta andando. Oh, mia bella Madonnina. Nel cortile incontriamo una dei residenti, una signora non giovane ma pimpantissima, che sembra aver preso molto bene le novità introdotte dai padroni di casa. Prendiamo l'acqua, al primo momento il pensiero di andare lì, infilare sotto, e invece l'acqua è buona. Io parlo per me, mi ritengo soddisfatta, non solo personalmente, ma anche il borsellino, perché io ho fatto un conto del mensile. E vado sulle 13-14 euro al mese di risparmio. Le cose in via Caldera, dove abitano circa 160 famiglie, vanno molto bene, racconta Rossana Zaccaria di Lega Coop Abitanti, il settore che si occupa di housing sociale per la Lega delle Cooperative, che segue lo sviluppo sul campo del progetto. Non altrettanto, purtroppo, si può dire altrove. Io ci tengo molto a dire che ci sono state, ci sono, insomma, delle esperienze di successo, come la loro, di grande successo, delle esperienze di totale insuccesso, di buco. Questo, diciamo, io ci tengo a raccontarlo qua, ma anche a raccontarla alla Commissione europea, nel senso che stiamo sperimentando che questi progetti attecchiscono, diciamo, laddove esiste già un po' una comunità. Loro sono una cooperativa a proprietà indivisa, poi magari lo racconteranno, che quindi hanno storicamente alloggi in affitto in cui hanno mantenuto negli anni una tradizione di rapporto con i soci. Abbiamo invece altre cooperative che hanno invece una proprietà divisa, che vuol dire sostanzialmente che vendono gli alloggi, gli abitanti rimangono soci, ma insomma. Ecco, diciamo, abbiamo provato ad esempio la cooperativa di Firenze, appunto, adesso non voglio citarla come. Però di fatto allora va detto che loro hanno avuto un grossissimo problema. Sono partiti appunto con un edificio nuovo, classe A+, e condomini giovani. Non sono riusciti a riscuotere un interesse sufficiente. Hanno provato su un altro edificio su cui facevano una riqualificazione, ma anche lì non c'era un rapporto, diciamo, strutturato con questi soci. Non è facile neanche mettere una compostiera. Realtà di Roma, quartiere di periferia romana, dove la cooperativa degli edifici, peraltro di qualità, però contesto, diciamo, sociale non facile. E lì c'è una contestazione politica in questo momento nei confronti dei canoni d'affitto, peraltro portata avanti dal municipio. Siamo andati a inaugurare la Casa dell'Acqua, che abbiamo peraltro installato con il budget del progetto, dimostrando che è un'installazione che ha costi di consumo molto bassi, eccetera, eccetera. C'è stata una contestazione sociale che non c'entrava niente col progetto. Ci hanno attaccato: ah, questi soldi della commissione li state rubando. È stata durissima. Roma non fa la stupida stasera. Esperienze negative di cui Lega Coop, ma anche Bruxelles e altri paesi europei faranno tesoro, perché i progetti LIFE, ricorda Angelo Salsi, responsabile dell'unità LIFE presso la Commissione europea, non vengono finanziati e lasciati a se stessi. LIFE, la Commissione l'ha interpretato fin dal primo giorno non come uno strumento dove la Commissione è una specie di banchiere, noi diamo i quattrini e poi una volta che il dossier è chiuso lo chiudiamo amministrativamente e ce ne dimentichiamo. Noi ci riteniamo all'interno di ciascuno dei progetti che finanziamo, anche se non siamo noi che fisicamente eseguiamo il lavoro nel progetto, ci riteniamo dei partner. E le dirò che abbiamo una politica di verifica e di monitoraggio dei risultati ex post ai progetti LIFE che ci porta a visitare dei progetti 20 anni dopo che sono stati finanziati. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.